Speciale, la politica nel tunnel. La politica nel tunnel, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Settimana cruciale per la scelta di colui che sarà il successore del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e allora il nostro spazio di approfondimento non può che partire dai pochi punti fermi che si hanno al momento tra questi data e orario del primo voto per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Il Parlamento in seduta comune è convocato per giovedì 18 aprile alle 10, saranno 1.007 i grandi elettori chiamati ad esprimersi con voto segreto, 630 deputati, 319 senatori, 58 delegati scelti dalle regioni. Le prime tre votazioni richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi, la soglia per essere eletti è dunque fissata a quota 671, dal quarto voto in poi questa si abbassa a quota 500. Quattro. Sin qui la macchina organizzativa. Quanto al toto presidente Prodi, Amato, Marini, D'Alema, i nomi più gettonati, a parte Prodi, che non riceverebbe i voti del PDL, sugli altri tre potrebbe esserci una convergenza ampia che vedrebbe insieme PD, Scelta Civica e Popolo della Libertà. Diversa invece la griglia dei candidati relativa al Movimento 5 Stelle. Partiamo allora da qui e da quanto sta succedendo nel movimento di Beppe Grillo. È con noi Andrea Viali. Allora Andrea, quali sono le novità del Movimento 5 Stelle? Buon pomeriggio Vincenzo a te e agli ascoltatori, è in pieno svolgimento l'atto conclusivo, Andrea, il secondo turno. Questo momento per cui andrei avanti. Andrea, è con noi? Ci sono Vincenzo? Spero che mi sentiate. Scontro frontale invece, adesso torneremo tra breve nel Movimento 5 Stelle, con all'interno del Partito Democratico tra Matteo Renzi ed Anna Finocchiaro. Il sindaco di Firenze ha bocciato la candidatura di Franco Marini e quella della ex capogruppo PD al Senato, ricordando la foto della spesa all'IKEA in cui la scorta della Finocchiaro spinge il carrello. La senatrice però ha replicato dando di fatto del miserabile a Renzi. Chi si comporta in questo modo, ha spiegato la Finocchiaro, potrà anche vincere le elezioni, ma non ha le qualità umane indispensabili per essere un vero dirigente politico e un uomo di Stato. La corsa per il Quirinale sta facendo venire alla luce dunque le tante contraddizioni nel Partito Democratico. Cosa sta succedendo allora nella forza politica guidata da Bersani? Lo abbiamo chiesto alla deputata Marianna Madia. Ascoltiamo se abbiamo questo passaggio. Io posso dire cosa mi auguro che poi alla fine di queste dialettiche, anche a volte violente perché è innegabile che lo siano, si arrivi alla convergenza su un nome autorevole, forte, che possa essere votato da tutto il Partito Democratico e non solo. Lei ha un nome che si augurerebbe potesse arrivare al Quirinale? Ma io ne ho più di uno, però non lo dico perché sono anche consapevole di quello che è il mio ruolo adesso. Io in questo momento guardo tutto, ma non incido sulla scelta di una rosa o di un nome, e quindi non dico dei nomi perché non ha senso dirli. Punto fermo il nuovo capo dello Stato, e poi cosa accadrà secondo lei? Che cosa accadrà non lo so, perché il prossimo capo dello Stato avrà, cosa che non aveva Napolitano, l'arma dello scioglimento, quindi certamente proverà a far costituire un governo, darà l'incarico a una persona che andrà a chiedere la fiducia alle Camere, o ci sarà un governo o si andrà a votare. Il Partito Democratico teme le elezioni, un ritorno alle urne? No, non temiamo nulla, riconosciamo che, come dire, riandare a votare dopo pochi mesi da altre elezioni che non sono riuscite a dar vita a un governo è un fallimento per un paese, non per un partito, per un paese, quindi ci augureremmo che ciò non accadesse, però è evidente che la priorità è avere un governo forte e autorevole. Se questo non è possibile, il ritorno alle urne è indispensabile, non c'è alternativa. Un eventuale accordo con il Popolo della Libertà in questa fase storica è fattibile, o lei a priori dice no a Berlusconi? Condividere non vuol dire fare compromessi, e quindi se il Popolo della Libertà vorrà convergere su un nome che noi consideriamo un nome alto e rappresentativo e di caratura internazionale, se il Popolo della Libertà vorrà votare un governo politico di centrosinistra che ha come programma gli 8 punti che Bersani dal giorno dopo le elezioni ha indicato in modo molto chiaro, come dire, perché no? Ma deve essere chiaro che non ci saranno compromessi. Queste dunque le parole di Marianna Madia, deputata del Partito Democratico. Quindi il Partito Democratico è per un Presidente della Repubblica largamente condiviso, oppure anche poi per il governo un ritorno al voto. Ma torniamo al Movimento 5 Stelle. Per problemi tecnici non riuscivo a sentire Andrea Viali. Allora Andrea, facciamo il punto sul Movimento 5 Stelle. Io ci sono, Vincenzo, mi senti spero questa volta? Benissimo. Ok, ti stavo dicendo, è in pieno svolgimento l'atto conclusivo, il secondo turno di queste quirinarie, e a urne ancora aperte, anche se si tratta, lo ricordiamo, di urne virtuali, visto che si vota soltanto online. Bene, a urne aperte, poco fa il cofondatore del Movimento 5 Stelle, Gian Roberto Casaleggio, ha ribadito quello che secondo i grillini dovrebbe essere il profilo del prossimo Presidente della Repubblica. Casaleggio ha parlato a margine di un incontro con alcuni imprenditori a Torino, la sua è stata una breve dichiarazione, sentiamola. Abbiamo anche scritto che sia super partes, che se preferibilmente non venga dal mondo politico e che rappresenti tutti gli italiani. Ecco, quel possibilmente non politico, Vincenzo, da molti viene interpretato come uno stop a Prodi e Bonino, due dei nomi sui quali stanno votando proprio in queste ore i militanti 5 Stelle, 9 e non 10 come era previsto inizialmente, perché stamattina Beppe Grillo ha annunciato il suo ritiro stando alle regole del movimento. Tra l'altro il comico non poteva essere candidato perché ha una vecchia condanna. Gli altri candidati ancora in corsa oltre a Bonino e Prodi sono Giancarlo Caselli, Dario Fo, Milena Gabanelli, Ferdinando Imposimato, Stefano Rodotà, Gino Strada e Gustavo Zagrebelsky. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 21. Il nome del vincitore verrà comunicato soltanto domani, e subito dopo questa comunicazione i capigruppo 5 Stelle incontreranno, sembra anche questa volta in diretta streaming, il segretario del Partito Democratico Bersani. In realtà però la linea politica che seguiranno l'ha già anticipata stamattina la capogruppo alla Camera Lombardi, la quale ha fatto sapere che i parlamentari grillini in pratica continueranno a votare il loro candidato per il Quirinale, anche se sarà chiaro che non potrà avere i voti sufficienti per vincere, per essere eletto, e che comunque non voteranno nessun altro candidato. Staremo a vedere se poi sarà effettivamente così, Vincenzo. E grazie Andrea, grazie ad Andrea Viali. Torniamo sul Partito Democratico. Ricordavamo poc'anzi la polemica tra Renzi e la Finocchiaro. Il sindaco di Firenze ribadisce in queste ore quali sono le priorità per il Paese. Non va perso tempo, è necessario, spiega, un governo in tempi rapidi. Ascoltiamo allora Renzi. Quante volte la politica ha messo nei consigli d'amministrazione gli amici degli amici anziché mettere le persone competenti? È accaduto anche nel mondo dei Finmeccanica. Anche da questa vicenda deriva un invito a fare presto alla politica. Facciamo fatica a individuare gli interlocutori, non sappiamo con chi parlarne, ci sono i consigli d'amministrazione che sono in scadenza, scade il consiglio d'amministrazione di Finmeccanica, ci sono il governo e le commissioni che devono essere gli interlocutori naturali per una battaglia per difendere i posti di lavoro. Per tutti questi motivi trovo fondamentale che si possa fare il più veloce possibile. In tutto ciò cosa fa il Popolo della Libertà? O governo di larghe intese o voto. Quanto al Quirinale, parole di Berlusconi, serve una larga condivisione. Tesi questa del Popolo della Libertà ripetuta in mattinata dall'ex capogruppo Cicchitto. Sentiamo. Il nostro scopo è quello di avere una soluzione rappresentativa, diciamo così, di un largo schieramento politico e anche di garanzia per tutti, visto anche che ci troviamo di fronte con un Parlamento così profondamente diviso. E quindi un Parlamento profondamente diviso è auspicabile che produca un Presidente del Consiglio larghissimamente votato. Di essere disponibili a votare, a sostenere, a far parte di un governo presieduto dall'onorevole Bersani, visto che per 150.000 voti ha avuto un voto, diciamo così, maggioritario rispetto alla Camera dei Deputati, e visto che c'è una situazione del Paese testimoniata da un lato dalla Confindustria, dall'altro lato dalle tre organizzazioni sindacali, che è assolutamente drammatica e che Monti ci lascia un'eredità pesantissima, tutto questo dovrebbe portarci a trovare un'intesa sul governo. Noi siamo disponibili, finora chi ha risposto sempre di no è Bersani. Se andiamo al di là degli schematismi, dei fanatismi e delle ideologie, poi può anche capitare che l'onorevole Fassina ci demonizza sul terreno politico e poi sul terreno dei contenuti, per quello che riguarda la politica della crescita, ci stanno delle posizioni comuni fra noi e il PD. Ma questo è l'insano paradosso che sta bloccando la vita politica italiana per la parte della formazione del governo. Queste dunque le parole di Cicchitto del PDL. Per il Quirinale, lo ricordiamo, si lavorerà sino all'ultimo, non si fermano i contatti tra le forze politiche, contatti alla luce del sole come quelli tra Bersani e Monti, i due si vedranno tra circa mezz'ora. Mi fermo qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.